io, c'è qualcuno sotto i miei 10? Becla. C'è qualcuno sotto i miei 10? Becla. Elo. Sto provando un microfono della Donis. Sono un baracchino però. Ma la radio, forte, bella. Perché ti ascolto male io a te, bro? Ah, boh. Aspetta. No, non ho fatto niente. Non lo so, cla. Cazzo di baracchino il crano, cazzo. Io ti ascolto benissimo. Allora, uno che te prova. Aspetta, Luca, ti sento male con questo cazzo di baracchino. Non lo so se riprare, cazzo, per esempio. Non lo so, cla. Sono così due. Prova adesso, Luca. 1, 2, 3, 30, 40, 50. Mamma mia, ragazzi. Va bene, grazie, tutto andava a parte. Beh, adesso c'è un Mickey Ginn. Sai la usando? Guarda, ora, 1, 2, 3, 4, 5, trova radio. Adesso, da accanto un gaffa esci, Taddo. Esce un bel forte, è vero. Esce un bel forte. Che baracchino è? È un Uranus. Uranus, ti ricordi quello che mi aveva dato tuo fratello? Allucinante. Allucinante, niente più Uranus. Cazzo di è. Una bomba. Non c'è una quanti fatti c'è, non lo vedo. E sto andando con un microfono, con l'adattatore, il microfono professionale della Donis, tipo MC60. Chi te l'ha dato la radio? Cosa, Lu? Chi te l'aveva dato con quel baracchino? Chi me l'aveva data questa radio? Cazzo di Pietro Braccio di Ferro era. Ah, è vero, è vero. Fatelo, cazzo, mi insegna, raga. Ho capito, ho capito. Esce benissimo. Certo che esce bene. Radio Rete, va? Sì, confermo, esce molto bene. È un bel forte. E c'è anche una bella ricezione. A te mi sta chiudendo il telefono? Sì. Quindi non si può fare questa cosa. E il segnale com'è? Fai. Guarda a vedere. Uno, due, tre. Non so quanti watt stia dando, perché non capisco se c'è la regolazione della potenza. Non lo so. Non lo giaccio, KK del Rogero. Sì, 7 a picchi di 9. Niente 7. Ma dove sei? A casa da Marina? No, a casa della mamma. Chi cazzo? E non ti fate bene questa radio. E io che voglio ragazzo è Bippi. Dice a vedere? Bravo. E qui non c'è Bippi. No. Allora, il terreno è stato modificato, HI cos'è? Potenza massima. Prova. Ah, HI, leggete, vedi? Sempre 7 a picchi di 9, è un bel picco di modulazione. Sempre 7 a picchi di 9, Marina, pochi watt, chi lo sa? Quanti watt sta là? Ho attaccato il rosmetro. Però l'assorbimento è molto poco. Ma un dissipatore apparecchio allucinante. L'apparecchio si chiama? Come si chiama l'apparecchio? Si chiama Intec è qui. Dovrebbe essere Urano, si cosa ne so. Così era, io mi ricordo così, non so. Allora, Intec Galaxy Uranus. Eia. Ah, posso aumentare ancora, mi guarda. 1, 2, 3, 4, 5, basta. Ah, una cannonata il tuo microfono. Traccia lo Smith tutto a destra, poi c'è una tastiera che ci sono 3, 6, 9, 12 tasti e 4 pomelli sulla sinistra. Ehi, digitale, sì. Nel vibrante che tratti e matracca. Vabbè, c'è anche tu che si senti qualche rumore. Però no, c'è poco assorbimento, secondo me prendi pochi watt. Ecco, sei fatto? Qua stai arrivando così. Adesso vuoi stare più forte. Ma è un po' più va. Tu qua sei molto molto bene. Quella radio. Cazzo, siamo un po' di mal di testa, poi ci ho fatto merenda. Mi è venuto poco fa Danilo, che gli ho consegnato un telefono al suo per il suo collega. Stamattina gli ho cambiato il display. E niente. Poi ho fatto un merenda, mi è passato, non ho preso niente. Oggi non esco a casa, domani non mi attesa, a casa, domenica a casa. A casa, già si sta bene a casa. Non piove e va benissimo. E non prendi di nascita. E infatti non prendi di nascita. Lascio questo microfono, mi ordino il carretto nuovo e lo metto sul K. Capito? Sì. È una bella radio comunque, bella, pulita, pulita, un bel forte. E ci vogliamo la cintura di sicurezza qua. Ecco qua. Gappa gappa. Chi è? Salute. Saluta Claudio, vieni. Saluta Claudio. Non vuoi muovere, saluta Claudio. Non vuoi muovere. Vieni te. Saluta Claudio, vuoi saluta Claudio. Vieni. Saluta Claudio, dov'è? Dov'è? No, senti, non sali sul letto, guai, Allora, guarda. No, mi, grazie. No, mi, no, scendi dal letto, mi non sei io. No, ma sei una tanta volita, ma no, mi no, non la voglio. Ehi. Che cazzo, ragazzi, non mi ricordavo che avevo così pochi vatti. Se parla un po' di vatti, che tal radio guai, ragazzi. Con questo microfono è una bomba. Ma vero, cazzo, mi sono messo le cuffie a una canonata. Ehi, te lo sto dicendo io, la canonata. È un bel forte, bella. E poi molto chiara, cazzo. Pare una MC60. No, lascia bene, bella. Vabbè, per non attaccarle a noi voglio imbarrarti, stavo giusto provando perché l'ho trovata dentro l'armadio. Nuova, Emmy, come il giorno che me l'ha data, la pizzeria mi aveva portato quella scatola, tuo fratello c'era lineare, baracchino, cavi, microfono, luce, mettere di tutto via. Adesso mi ricordo quanto è che l'avevo pagato. A me sembrava che l'avevo venduta invece che se no, ma l'ho venduta. Aspetta che sono al telefono un attimo. Fai. E allora qua, che si dice? Qua ci vuole Fabrizio. A darmi qualche dritta, perché questo sicuramente è uguale al Galaxy Pluto. Sicuramente darmi qualche dritta a tirarlo su di potenza. Ciao Claudio, mi senti? Sì. Sì, ti sento, ma l'autocorrente interno, anzi no interno. Niente, data sta piovendo, sì. Mi pare di no, specchiato la finestra. Nai. Sì, perché poco fa ha piovuto qua, sta piovendo. Sì, poco fa sì, anche qua ha dato una bella scucciolata. Nonostante tutto, c'è la propagazione sempre allerta. O col bello o col brutto, ci sono sempre persone sotto che parlano. Come mi ascolti tu già fra di radio di segnale? Tutti i watt, questa è una radio, secondo me senti 2 watt, 3 watt, non so come si regola. No, rifai. Cosa? Un baracchino questo, un Intec Uranus. Ti dico, superi ampiamente al 9. La radio è 5, molto forte. E niente, mi sa che è il tuo suddetto segnale. Ancora che 9 ti arrivo, se attacco il K9 ti arrivo. No, non è un segnale debole, ma qua ci sono, lo sai, no, come sono fatti questi, con questi impiasti di LED, e quindi non è preciso. Tu pensa che quando io parlo va da 8 a 30, e quindi ti ho detto tutto quando parlo come modulazione. Il segnale massimo è 9.30 e tu dovresti essere a occhiometro 9.15, 9.20. Poi qua vado al 9 e poi subito dopo al 30. 9. Alle picche di modulazione allucinante. Anzi, non so se qua siamo in brutta liberazione, perché SRF, non so che se è messo in stazionario, cos'è, su questo invece c'è questo affare che non riesco ancora a cavarne a piede, che si chiama ASC, no? Che è quello squelce che si mette per non avere fastidi. Non è molto alto, tanto è vero che si sente a volte anche la propagazione, tutto in automatico, si sente solo la voce, però a seconda della stazione che parla a me la fa tipo spezzatino, si sentono le parole con tante interruzioni, e mi tocca mettere lo squelce normale, è tutta una manopola, no? Tutti quelli nuovi sono così adesso, questi affari. E via, guarda se c'è Roger Bip. No, aspetta un attimino, hai detto? Se c'è Roger Bip, guarda a vedere. Se c'è io non lo sento, prova a dare parecchi colpi. Sì, c'è, buonasera. Ciao Giulio, ma io penso che cos'è, e io cos'è? Sì, c'è, ma è... Ciao Giulio. Ciao Giappa. Sì, c'è. È solo un piccolo accenno di bip, comunque c'è. Vabbè, sentiamo 8:30 qua. La Basiru. Guarda, se ti dico di chi era questa radio, tu mi dici come hai fatto la bella. Questo è un Uranus. Io ho comprato il blocco quando è morto, veramente me l'ha fatto avere il cognato, che sarebbe il fratello di Luca, capito? Ed era, io avevo comprato tutta la stazione radio di Pietro Braccio di Ferro, tu immaginati, questo radio minimo era 7-8 anni dentro l'armadio, svuotando le cassette, svuotando la roba, che stasera mi sono messo intanto fuori, non posso far niente, senti che radio che ha, però lascia perdere il segnale, evidentemente è poi partito qualcosa, sta andando con pochi watt, però senti che radio che ha, è favolosa, e l'ho trovata dentro una scatola. Sì, lo so, la radio è buonissima, no, non c'è problema. E prova a toccare i VR13 e VR14. Solo lì lo può aumentare la modulazione, perché tanto lo so che è così, è come il Galaxy. Io ho il Sommercamp 789 da Sommercamp, che è quello stesso, ma c'è da impazzire per usarlo, magari dai, con quei tasti, poi fa da 25 sino a 30, mi sembra 32, mi se ricordo bene, e chi ne ha mai usato? Mi pare che sia un padre della Mondezza, non lo so. Ma questo deve avere qualche coso, SKS, non so cosa sia. Poi c'è questo HIH-L. Che non sia questa la potenza. No, non è questo di potenza quello. Già lo so. Prova a chiedere a Eugenio se si ricorda come funziona, lui ce l'ha quello. Sai che ha messo il bip là? Ciao Giulio, sono rientrato. C'è il bip adesso? Buonasera. Eia. Ciao Gianni Nannini. Ciao Luca, buonasera a tutti. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. C'è il bip. Adesso guardo, perché c'è un sacco di funzioni, voglio capire se praticamente questo, forse schiacciando Enter, solleva la potenza. Avanti Gianni, ripeti. HI dovrebbe essere la potenza alta. La potenza alta dovrebbe essere HI. E niente, vabbè, ciao Giulio, ciao Gianfranco, Luca, tutti gli amici, dai. Sono entrato per salutarvi, dai, in una mezz'oretta mi posso trattenere. Come mai Gianni? Cosa ti è successo? Altre cose da fare? Non voglio trascurare nessuno, mi capisci? Bravissimo. Prima il dovere e poi il piacere. No, ogni tanto così la sera, adesso vabbè, con questo tempo brutto ci stiamo sentendo un po' più spesso, anche io sto entrando un po' più spesso perché fuori non puoi fare niente, quindi insomma mi sono un po'. Ho provato questo baracchino nella in una cassetta, ed era il baracchino di Pietro Braccio di Ferro, l'Inter Turano, però non ci capisco, un accidenti. Bella radio, pensavo che fossi con le BC60. No, il microfono è un Adonis con l'adattatore clippato, connettore a 6, uscita clippata con l'Adonis, che questo è un signor microfono della Avaire Adonis. La M508 è un microfono professionale che puoi attaccare sia il connettore I come il connettore Kenwood. Io ce l'ho attaccato sul Kenwood, però c'è l'adattatore clippato e poi entra 8. Era tutto così, proprio non ho toccato niente. Però sto cercando di sollevare la patente ma non ne comprendo nulla. Adesso provo a fare un'operazione, mi pare che era Enter e poi schiacciare dove c'è scritto HL, perché se lo schiaccio dove c'è scritto HL mi cambia, mi va nelle memorie. Vediamo un po', riprendi Giulio. Ok, sì. Sì, infatti ci sono le memorie che puoi registrare oppure utilizzare la sintonia continua, certo. Già lo so, già lo conosco come, come funzionamento. Sto dicendo, io ho 789 della somma, il campo è uguale, però non mi ricordo più perché non l'ho più usato, perché tutte le volte che lo usavo c'era da impazzire per sintonizzarlo, allora mi sono staccato e l'ho messo da parte. No, non mi interessa più. Dunque è conservato, però no, non mi interessa più. Vabbè, avanti Gianfranco, ciao Gianni intanto, è Luca. Avanti Gianfranco. Sì, ciao Gianni, buonasera. Niente, io sono qua in ascolto perché sto provando a dare cose. C'era anche... la memoria. Luca, Luca, riprendi tu, se riprendi dimmi come è andata col PC. Ciao Gianfra, il PC è a posto, ho installato anche la pennina, quella wifi, perfetto, però la RAM ho notato che se ne metti due banchi, lui è da due, ma me ne legge sempre tre. Ah, l'importante è che funzioni, così almeno si possono fare delle prove, è tutto lì. Perfetto. Claudio, prova a chiedere a Eugenio che lui ce l'ha uguale quello, se si ricorda il funzionamento, se lo diventi mancante di vinci. Vai qua. Dimmi lui, ciao Giulio. Ho detto, chiedi a Eugenio che ce l'ha uguale col baracchino, se si ricorda come funziona, se lo diventi pazzo cercando tutte le combinazioni, per carità. E poi ogni tanto si incantano anche quei tassini che ci sono, mi sembra che sono 9 tassini, se ricordo bene. Va bene, dai. Avanti Gianni. Sì, anche non mi pare che l'abbia messo da parte perché anche lui si stava un po' rompendo. Vabbè, dai, non è un bel apparecchio, se ne sa tutto usare va bene come apparecchio. Aspetta, c'è una ricezione favolosa. No, è un bel apparato. Aspetta, io non lo ricordavo, ma ti va a decifrare il capo. Un poco di HI Power, non riesco a capire, perché c'è la potenza minima. Sta assorbendo 5 ampere, quindi sta andando con la potenza minima. E questo dà un bel impatto. Io mi ricordavo, Eugenio mi ha detto che dà un bel impatto. No, è un 10 watt ce l'hanno di più, è 20, 21 in banda laterale, quello sì, è vero, no, non si crede che dia più di tanto, però lo so, è un ultimo apparecchio, se uno ha la pazienza di studiarlo bene, è che si ricordi sempre come funziona, perché tutte le volte quando si azzera poi, tutte le volte che lo accendi devi sempre fare tutta la combinazione, ma cari dai, vabbè dai, avanti Luca. Ma infatti, ma già esce bene comunque, là. Esce bene, cioè, cos'è che hai messo su, raffanculo, cos'è che hai messo su Facebook, cos'è quella roba che hai messo? Ma chi io? No, Gianni. Gianni non c'è, sì? Gianni non c'è, vabbè dai. È così, è qua. Se uno lo usa tutti i giorni, si ricorda come funziona e va bene. Ma se lo metti da parte per qualche giorno, ti dimentichi come funziona e poi tutte le volte, me mi faceva innervosire. Funziona bene, quindi perché funziona bene, non so. E io con quello avevo addirittura parlato con Ulbia, devo immaginare, tramite Serafino. Vi ricordate Serafino, il pastore di Usilo? E lui aveva fatto la ponte, a me mi sentiva, io a lui non lo sentivo, quello di Usilo, quello di Ulbia, però mi aveva fatto la ponte Serafino, a me mi aveva sentito, in banda laterale però, in banda laterale, vai qua. Ci sono? Eia. No, ma io già... No, già lo so, l'ho preso già la mano, non c'è problema. No, perché lo spegni? Quando lo spegni si azzera, si mette a 26 MHz. Tu vai su manuale, vai su down app e lo porti a... da 27, puoi andare tranquillo, no, non è difficile per quello, non è quello il problema. Voglio capire se è successo qualcosa tenendolo fermo o se c'è qualche funzione all'interno del menu, perché c'è anche il menu. Vabbè, vediamo un pochino questo PRG, non dico, vabbè, dai. Avanti già, ripeti. Stavo cambiando apparecchio e non vi ho potuto rispondere anche se vi ho sentito. Avanti Luca, cosa mi stavi chiedendo? Avanti Mac, chi è? Scappa, dai, mi hai sentito, non ho capito il nominativo. Comunque sei in compagnia di Gianni Doppio Room, di Claudio Spalviero, di Giulio e poi c'è anche Luca, dai. Poi per chi vuoi, c'è anche Gianfranco, ma l'ascolto. Claro, sì. Ci arriva magnificamente bene, Santiago 5, non so se lo sente a me, perché con questa potenza, se no lo metto da parte... è comodo l'altra radio, eh. Chi è Gianni, chi è che sta parlando? Mario? Gianfranco da Porto Torre. Mario da Porto Torre, se non Gianfranco. Gianfranco, Mario non arriva. Mario non arrivi, mettiti nella posizione dove eri ieri sera, se no io non ti sento. E lo stesso discorso sarà la stessa cosa per altre persone. Ti può sentire Gianni e Claudio e basta. Mettiti dove eri ieri. Arriva bene. Santiago 7 sta arrivando. Santiago 7 e mezzo, va. Ma chi sei? Mario o Gianfranco? Ah, però l'ho capito male io, scusami. Ah, ehi, già ho detto, cos'è che hai messo su Facebook? Questa è la roba che hai messo. Aspetta un attimino, si blocca. Perché non l'hai aperto? Non lo fa aprire. Sono io che stavo cantando. Va. Andava, era lì, sto controllando un po' di spiccioli qua. Monetine da un centesimo, da due, da 5 centesimi, da 10, da 20, da 50, da 1 euro e da 2 euro. Che pagata. Va bene, va bene, fare la formica. Avanti Giulio, riprendi tu. Allora, aspetta, allora già, scusa Giulio, tra 2 e 1 euro, da 1 euro e da 2 euro, ho 760 euro. Io ne ho fatto 380 conservando gli spiccioli, anzi quasi 400 ne ho fatto, perché poi ne avevo anche dall'altra parte. E vabbè, li ho usati per far prendere la patente a Marco, e gli ho aggiunto qualcosa e gli sto facendo prendere la patente. Ma ci ho 760 a Natale, ce la faccio, se no continuo, non arrivo a 1000 me li cambio. Avanti giù, scusami. Niente, oh Luca, non c'è problema, figurati. Sì, Gianni, non so, lo conosco adesso in frequenza Mario, però se non si mette nel punto dove era ieri non riesco a sentirlo, ma non solo io, anche altri, nemmeno Luca lo sente, se per quello, e nemmeno Gianni il profeta lo sentiva, e lo sentiva solo Claudio ieri. Ma evidentemente, siccome esce con un'antenna, dalla macchina, no, con un'antenna magnetica, non lo so, evidentemente non va molto bene. Non è come la tua antenna quando andavi a Porto Torre, sei Gianni, ti ricordi che non ti perdevo nemmeno per un metro, nemmeno per un secondo, da Sassari a Porto Torre, se da Porto Torre a Sassari, ti ricordi Gianni? Certo che mi ricordo, sono fatto la 3001, so se l'hai vista, hanno fatto un'antenna nuova, la 3001 si chiama. Sì, ci sono delle belle antenne, certo, certo che sì, lo so, anche la stazione fissa c'è la cosa, la Star Tech, mi sembra, J-Polo, quella che adesso ha Claudio, che è meravigliosa. Tutta in alluminio, uno stilo, anzi due, uno lungo e uno corto, una J-Polo, e va molto bene. E infatti quando commuta con l'antenna Mantova perde 5 punti S Claudio, mentre invece con la nuova antenna li guadagna 5 punti S. Dappertutto, sia in ricezione che in trasmissione, Gianni. Quello è buono. Adesso non so come sia. Io ce l'ho 2001, adesso sto facendo la 3001, che è leggermente più grosso lo stilo, a quanto stavo leggendo, è più performante come antenna. Chi l'ha provata ha scritto che è più performante della 2001, ma la 2001 non mi basta perché vado bene da tutte le parti con quell'antenna. Infatti va bene, sì. Vediamo un po' se si è spostato Mario. Mario, ti sei spostato? Vediamo se ti ascolto. Io lo sento. Tu lo senti, lo so già, tu lo senti, sì, certo, anche Claudio lo sente, ma tutti gli altri non lo sentono, è quello il problema. Sento solo il bisbiglio, però io non capisco quello che dice, è quello il problema. Vabbè, pazienza, dai, farai la ponte tu già, non c'è problema. Ok, riprendi Gianni. Ha detto che sta uscendo con portatile, perché sarà un po' difficile sentirlo. Purtroppo io non ci posso fare niente. Mi dispiace non sentivo, perché anche ieri in un primo momento non sentivo, poi si era spostato, riuscivo a sentirlo, e avanti ieri lo sentivo in maniera proprio splendida, veramente bene, con una bella radio pulita, forte. Invece se non trova la posizione, se non recupera la posizione dove era ieri, almeno ieri, non potrò ascoltarlo. Purtroppo è così, ho già, non so per quale motivo, ma purtroppo è così. Ma non solo io, anche gli altri non l'ascoltavano, l'ascoltava solo Claudio. Vediamo se è rientrato intanto Claudio. Che è che se lo sento? No, non lo sento, sento il bisbiglio e basta. Solo il bisbiglio sento. Se si mette di fronte alla chiesa di Balaio, lì in quel parcheggio lì va la grande. Sono rientrato, guarda il segnale adesso, Giulio. Metti la portante. Guarda, a vedere, 1, 2, 3, 4, 5. Un pochino più del 9, un pochino più del 9. Ho detto già, Claudio, tocca l'RV, quelle resistenze che ci sono dentro, RV13 e RV14, sono quelle della potenza, è come il garage intanto, per cui già ce l'hai la lista quali sono i trimmer da toccare, che poi sono resistenze variabili. Tocca quelli, Claudio, vedrai che magari riesci anche a aumentare il segnale. Oh beh, allora adesso sta andando con 8 watt, poco fa stava andando con 2 watt e mezzo, adesso 8 watt, la potenza massima è questa, non è stato mai toccato, è originale, capito? Quindi adesso va bene, non l'ho aperto, sono andato nel menu e ho trovato il coso, bisogna tenere premuto per qualche secondo enter e poi ti dà potenza bassa, potenza alta, infatti era in L, in Love, adesso è in HI, e sta dando esattamente 8 watt. Ok, sì, adesso va un po' meglio, adesso è 9 più 2, 9,5 quasi, là. Fa modulato il 9,5, adesso si incomincia a ragionare, prima eri 7,5, 8 modulati, si può immaginare, adesso già hai recuperato un po' di segnale. Avanti ancora, guarda che c'è Mario a Porto Torres, che sta cercando il posto dove era ieri per farsi ascoltare anche da me, ancora però non l'ha trovato. Avanti ancora qua, vai. Sì, QSL, molto bene. No, Mario lo sento, Santiago 7 come sempre, 7-8. Vediamo un po' se l'ha trovato il punto. Mario, attento Mario, KQSL, molto bene Mario, allora buona serata, buon tutto, e attendiamo appunto quando arrivi a casa, così ci fai ci fai sapere. Va bene, beh, io cambio adesso commuto, questa la metto a posto, ho visto che funziona, è perfetta, mi ha fatto piacere che l'ho ritrovata, perché a me sembrava l'avevo venduta, invece me la sono ritrovata dentro una scatola. Va bene, ok, questa era di Pino Braccio di Ferro, o Pietro Braccio di Ferro, adesso mi ricordo. Va bene, ok, allora il cambio per chi tocca non lo so, fai girare tu Gianni, dai che io cambio radio. Sì, allora, comunque saluto a Mario, hai sentito, dai, poi ci fai un colpetto quando arrivi a casa, l'importante, dai, così almeno sappiamo che ci sei. Andare, e tocca a Luca, avanti Luca. Pietro, Pietro, no Piero, Pietro, Pietro Braccio di Ferro. Eccoci qua col mostro, molto bene, ritorna IS0 Sparviero. Ok, dai, sì sì, Pietro Braccio di Ferro, me lo ricordo perfettamente. Adesso è salito sul più, sei quasi. Beh, che te lo gappa, che te lo vuoi andare a 20... Sto andando quasi 30 watt di portante e 50 modulati. Ma tu hai una stanza tua per le radio, Cla. Cosa? Ho detto, hai una stanza tua per le radio. Uguale a prima, non cambia niente. È stata fatta apposta. Solo che ci dormo anche. Dopo pranzo mi riposo, di là non c'era il lettino. Qua mi sono messo il lettino, praticamente mi sono fatto proprio mia personale. Mia personale, se viene qualcuno, qualche ospite, eccetera. In attesa di finire la stanza grande che c'è nel Cavedio, lì esce un mini appartamentino. Quindi questa estate la terminiamo e lì esce un altro mini appartamentino, la dipendenza per quando viene qualcuno. Non è che ve ne assaiente, no, che comunque. No, questa è mia, c'è il lettino, poi c'è la base, la piccola, non quella grande, la grande è conservata, e ci sono un bel po' di radio, là di nuovo, non c'è problema. Ehi, va bene, dai. Adesso già va bene, tutto a posto. Avanti Giulio. Come l'hai attaccata? La piccola, come l'hai attaccata? Al muro lo stesso sistema che avevo fatto io? Sì. Praticamente ho seguito la direttiva che c'era nell'altra, ho preso un listone, gli ho messo le cerniere, ho fatto la stessa cosa, adesso sono sia la piccola che la grande, tutte e due a cerniera giù, perché è troppo grande quella, l'ha capito. Radio ce ne sono molto meno, prima mi servivano due basi, adesso basta una, e già ce n'è, c'è il Galaxy, c'è lo Standard, c'è il 757 la IAESU, c'è il 430, c'è un altro 430, c'è un altro, già ce n'è, però ci stanno tutte bene, con il ripiano sempre quello tuo, tutte le linee che vuole sotto e sopra praticamente Galaxy Standard e 757. Hai fatto bene a seguire lo stesso procedimento, molto molto bene. Avanti Gianni. Sì, allora vedete come sta andando con questa radio, se sta andando bene o male. Com'è come segnale Giulio? Ottimo, oltre il 920, oltre 25 quanti? Che da tecla? Ma si è agganciato però. No, non sono agganciato, si aggancia qua. Si aggancia qua, sì, 9, quasi 9 più 20, sì, qua. Però tieni conto io sono lontano, non sono vicino. No, sono col DX, capito? Sono con l'apparato di Massimiliano. Sì, ma si ha un dubbio, quello non è un baracchino normale già, è come che si è agganciato, nel senso che... Quello rulla forte, l'ho provato, grandissima radio, molto molto bella, sia esteticamente che il funzionamento che ha quella radio, molto bella. E andava bene. E l'ho accesa adesso perché era un po' che ce l'avevo ferma tutta la radio, adesso piano piano le facciamo girare, che hanno bisogno di farsi sentire. Va bene, dai. Va sempre bene Gianni, non c'è problema, la radio è sempre quella, bella, potente, splendente, e il segnale è sempre il tuo, dai, già va bene, per cui non c'è problema, nella maniera più assoluta. Vabbè, ok, comunque sei troppo assente a questo periodo, eh? Questo te lo devo riproverare, così in amicizia naturalmente, senza nessuna offesa, ci mancherebbe altro, perché sei padronissimo di fare quello che ti pare ti piace, non devi dipendere da nessuno, soprattutto da me non devi dipendere. Va bene, ci sei Luca? Sono sempre qua, sì. Io sto andando bene, sì. Da me benissimo, no? Non c'è problema. Anche tu vai benissimo, no? Certo. Adesso, Luca, ma in questo periodo anche a voi vi fanno i lavori lì, nelle case, eccetera, eccetera. No, no, ti sto dicendo questo, per approfittare mi ha fatti mettere due belle gaffe eventualmente dai muratori quando vengono lì a fare, perché so che ho letto sul giornale che fanno dei lavori dove sei tu, no? A diverse strade, diverse case. Approfitti a farti mettere due belle gaffe, così ti sistemi bene l'antenna, la manto, ma una volta per sempre. Vai tu. Ah, sì, sì. Mi dovrò organizzare proprio il prossimo anno in primavera, però, Sì, staccare quelle lì e mettere due gaffe come mi sta facendo Roberto Quadrato, che vabbè, mi compro il materiale, così poi mi fa vedere lui cosa fare, prenderà le misure giuste, faccio due gaffe fatte bene bene come Dio comanda, tipo quelle che allene. Tanto meglio, ma quelle le vendono già pronte, le vendono anche, le vendono da lì come ci sono di varie lunghezze, perciò non c'è problema. Avanti Claudio. Sì, se c'è il muro buono, io le ho comprate da Carboni, le staffe già col piatto pronto, scegli da 14 e ti dico che c'è un tubo da 60 attaccato, quello che abbiamo tolto dalle direttive sulla J-Pol, mentre la Mato va, c'ha le stesse staffe che abbiamo tolto a Carbonati, capito? Non cambia assolutamente niente. Se c'hai muro puoi mettere le staffe buone, però lì da te mi pare sia Forattini, io c'ho tutto il muro di cinta fatto a cantoni da 25, quindi tanti da 30 sono. No, io c'ho quel forato grande, là, quello largo, non so come si chiama. Un attimino che c'è un nipote che è disperato, che c'ha il telefono, è sempre disperato, lo rompe o spacca il connettore di ricarica, riprendo subito. Vai, vai Gianni, vai. Chi c'è rimasto qua? Io, tu, Gianni e Giulio. C'è anche Gianfranco, un ascolto. Gianfranco c'ha sempre le orecchie di porco. Ah, comunque Giulio, ti voglio rispondere, qualche volta ho acceso e non c'era nessuno, capito? Ho acceso qualche volta, però diciamo che ho altri impegni e quindi l'accendo ogni tanto, vi ascolto, ogni tanto entro, là. Non è più come prima che lo fa già, adesso so come va già. Gianni, ci mancherebbe altro, quello è ovvio che la famiglia è più importante del baracchino, questo non ci sono dubbi, ci mancherebbe altro, quando puoi entra, quando non puoi, pazienza, vuol dire ci saluteremo quando puoi, non so cosa dire, Gianni, io ho detto così, ma naturalmente non è che ti sto gridando, ci mancherebbe altro, ma vuoi vedere. Vai Claudio. Vabbè, Baggiano, ma è fine, dai. Non sei mai stato Baggiano, tu. Va bene così, adesso chiaramente è la nuova compagna e quindi è chiaro che devi stare più presente, fare altre cose, eccetera. Ed è giusto così. L'importante è si tiri avanti e ciccia. E cosa vuoi che ti dica? Già va bene. Giulio, invece con il K, il segnale mio, mi pare avevamo perso 8 punti, no, da Carbonati a qua. Di là era 9-18, questo quanto è 9-10? Sì, 9-10 è modulati, 9-12, da modulati, 9-10 è importante, sì, però è sempre un segnalone, no? Cosa hai perso? Non hai messo nulla in pratica, cosa vuoi che sia? Sta andando alla grande lo stesso, la radio non si discute, è sempre la solita, per cui che problemi ci sono? Assolutamente niente. Luca, ci sei? Sì, un attimino che c'ho mio nipote che mi sta mangiando il cervello. Devo provare su un cronistema, un po' più niente, ma siccome io sono fatto così, più forte di me. Un attimo, riprendo subito. Ok, riprendi tu Gianni allora, dai. Ehi, a Claudio, ma quale stai usando di antenna? Quella nuova o la Mantova? Scusa Gian, che mi ero appannato, cosa hai detto? Ho detto che antenna stai usando, la Mantova o quella nuova che hai comprato? 7 ottavi, la Mantova 5 ottavi, questa è 7 ottavi, 8,50 m, questa è la J-Pol, la Smartec J-Pol. Va bella, ma molto bella. Come rimane questa J-Pol? Sono due antenne accoppiate, per farti capire, una da 8,50 m e l'altra è da 2,50 m. Sono staffate assieme con l'erbalum 1-1, tutto in alluminio, tutto in acciaio inossidabile, gli isolatori sono tutti in bachilite. È un'antenna favolosa, Gianni, sai cosa dire, favolosa. È favolosa, sia in ricezione che in trasmissione, tiene il vento, perché l'altro giorno ha fatto una raffica di vento di maestrale, piegava leggermente la punta come la Mantova, per il resto manco si muoveva. Giulia, avevi ragione, perché essendo due antenne una attaccata all'altra, sino a metà antenna, sino ai 4 metri almeno, no? È completamente stabile, si muovono gli ultimi due elementi, quelli che sono più fini, e basta. Sì, ma era comprensibile in questo particolare qua, che essendo due antenne accoppiate, una fa anche da rinforzo, ci mancherebbe altro. Quella più piccola fa da rinforzo a quella più lunga, a parte il fatto che elettricamente è nata così. Però, visto e considerato che esiste anche quell'elemento così da 2,50 m, quella fa da supporto per quanto riguarda la resistenza all'altra, quella lunga da 8 metri, per cui Gianni, perché ha uno stilo lungo 8 metri e forse è qualcosina di più anche Gianni. E vabbè, poco più dell'altra che c'ho io, l'altra, un metro e qualcosa. Ho capito. E come frequenza, che frequenza fa? Guarda, quasi 0,30, io ci trasmetto un HF, figurati, senza correttore. 7, 14, 21 e 28 le fa tutte le bande HF fa. È un altro tipo antenna Gianni, è una 7 ottavi, la Grimace è una 5 ottavi, questa è una 7 ottavi, c'è un guadagno allucinante, poi il radiale è quello appunto che è accoppiato alla antenna verticale, così chiamata, quello fa da direttore proprio, secondo dove lo punti è tipo una direttiva, ce l'ho puntato a nord, come dice il manuale, ma tieni conto che è 4 metri da terra, questa la puoi mettere anche in terra, piantata nel giardino e funziona lo stesso, è un'antenna spettacolare. Quest'estate la metto al posto della Mantova che è alta 6 metri, ma io ti faccio un passaggio a te, questa è una radio, ma io ti uso l'altro K, il microfono è diverso e c'è una differenza di 5 punti e ce l'abbiamo già riscontrato, è come che stai usando un lineare, quindi con la Mantova a Giulio le arrivo 9 più 5 sicuramente, l'abbiamo già fatto, e con questa 9,10, è una cosa allucinante. QRM è 0, Sergio lì è 0, quando tutti hanno QRM io sento solo la propagazione, i segnali però non ne sento mondezza. È stazionario? Stazionario è 0,80, dal canale 1 al canale 80, 0,8, sai cosa vuol dire? Neanche uno di stazionari stabili vuol dire che non è che salgono, man mano che sali di frequenza salgono anche, non si muovono, neanche uno, 0,8. È come la quella che c'ho io, è stabile sempre, non sale di stazionari. Adesso un po' la mia l'ho aggiustata, perché prima se l'ha piegata e cosa, però va benissimo, l'ho aggiustata, le ho messo tre fascette d'acciaio dove c'era praticamente c'era rotta per appena in punta, però io sono partito dalla parte dove non era rotta, fino ad arrivare alla punta dove era spaccata. Sta tenendo bene, ha tenuto il vetro tranquillamente, ho fatto bene e poi l'ho anche isolato, l'ho isolato tutto, cioè va bene. Il bello di questa antenna è che non va neanche isolata, niente, perché la punta centrale centrale, c'è un cappuccetto avvitato, a vite, sempre in alluminio, filettato, avvitato, no, mentre la manto, ma no, che fa che c'è un cappuccetto di plastica, questo c'è il suo cappuccetto di alluminio avvitato. Al centro del cappuccetto c'è un foro dove l'acqua entra da lì e esce dall'ultimo elemento, perché l'antenna è completamente isolata, non ha niente a che fare con l'acqua, capito? È favolosa. Vabbè, fatto un volato visto, io non la conoscevo questa antenna, spesso mi sia nuova perché non l'ho mai vista. Non è nuova, un'antenna militare che usavano anni fa, è stata rimodernata, rifatta, ricostruita da un ingegnere. Io sono l'unico in Sardegna che ha questa antenna, perché io anche ieri ho chiamato al venditore, che siamo amici, che è quello che poi ha riparato la radio Giulio, e mi ha detto no, non ho avuto nessun ordine. Vedi che me l'ha confermato Giulio, il filmato che c'è su YouTube è quello che ho fatto io, l'ho dato a lui, lui l'ha perfezionato, l'ha messo su YouTube proprio per fare la dimostrazione dell'antenna, il filmato l'ho fatto io, perché si vede, se tu stai attento si vede proprio l'antenna dove è montata eccetera, ed è eccezionale, un assetto Ottavi da favola, costa 200 euro più 20 di trasporto, 220 euro, però non me ne sono pentito perché volevo qualcosa di più performante rispetto alla Mantova, anche se io la Mantova ce l'ho lo stesso perché è piazzata, però quest'estate la tolgo la Mantova, ne metto una sola, metto quella a 8 metri di altezza, tu immagina, sta lavorando adesso al... mi ha detto a quanti metri ce l'hai? A 4 metri, sta lavorando al 70% mi ha detto, forse neanche, prova a tirarla su altre 2-3 metri e poi ti accorgi cosa lavora quell'antenna, infatti quest'estate la metto sui tubi dove c'ho la Mantova che è alta 6 metri e più ne aggiungo un altro da 45, la porto a 8 metri. Cosa l'hai, tirantata? Non ha bisogno di niente, no, se devi essere voi quelli tiranti, non ha radiali, non ha bisogno di niente, è che 7 volte, 10.000 volte più robusta di qualsiasi altra antenna senza radiali, perché come ti sta dicendo Giulio, sono due antenne accoppiate, una da 8,50 m e l'altra è da 2,5 m, sono una a fianco all'altra, sono praticamente isolate con delle barre in acciaio inossidabile e degli isolatori in batterite. Se io ti faccio la foto, ti metti, ti spaventi, il connettore del PL, la filettatura del PL, quello che va attaccato, tu non lo vedi quello, inserisci il PL, va dentro la bacchilite, ed è tutto isolato, e guarda com'è fatta, è una cosa spettacolare da vedere, se tu guardi bene le caratteristiche Smartech J27, J-Pol 27, mi dici che avevi ragione, leggiti bene le caratteristiche, cioè, tiene 5 kW, 5, la Mantova l'ha giù gribata con 1000 watt, vuol dire 922, ho fatto un buco, c'entrava due dita nella resina, questa è veramente una bella antenna. Vabbè, secondo te che hai trovato un'antenna che ti abbia soddisfatto, riprendi giù. Ok, già, sì, beh, indubbiamente è un'antenna, sì, è un'antenna che il progetto risale a tantissimi anni fa, proprio c'è un progetto di quando addirittura la usavano nel campo di guerra, ti puoi immaginare, però adesso l'hanno evidentemente riesumato quel progetto e l'hanno fatta per la 27 anche, che poi tra l'altro hai sentito che funziona anche in HF tranquillamente, sì, perché incominci tu a considerare che un'antenna verticale per l'HF è intorno ai 10 metri, Claudio, per farla funzionare in HF, naturalmente con i dovuti accorgimenti, è ovvio. Sicché questa, quando consideri 8,50 più i 2,50 siamo già ai 10 metri e oltre, ecco per quale motivo ti funziona anche in HF. Sicuramente hanno loro sfruttato la lunghezza totale delle due, dei due elementi per poterla far funzionare anche in HF, Claudio. Sì, ma i segnali sono da favola, veramente. Forse la zona, non lo so, perché qua sono molto alto, anche se non vedo Sassari, se fossi stato 50 metri più avanti, io sono nel cortone della vallata di Monte Bianchino, quindi, però se non mi posso lamentare, arriva benissimo Thierry. L'altro giorno sul 35, perché mi sono sentito con la mano, ti ricordi quell'amico lì in provincia di Cagliari, arriva, ci arriva, come prima arriva, non c'è nessun problema. Infatti gliel'ho detto, guarda io non sono più lì, ma tu hai perso qualche cosettina, ma niente di che, mi ha detto, no, arrivi benissimo, quindi ho tutte le zone che avevo prima, Alghero, Thierry, tutte le zone, tutte. Ho fatto le prove con Pinuccetto, arriva anche Budosò, Patara, arrivano tutti, non c'è problema, non mi posso lamentare, dai. È chiaro che in città, magari così, come da te, come magari da qualcun altro, perdi perché sei molto molto più indietro, non vedendo la città è chiaro che perdi, però dagli altre parti arrivano tutti bene, Giulio. Sì, qua, ma diciamo che io perdo soprattutto perché tu mi passi sopra praticamente, io sono fatto ad esempio che tu, conduttore, se lo senti in certe circostanze, io non lo sento, abbiamo detto tutto, no? Perché io sono troppo in basso rispetto a Sassari, ci sono 90 metri di differenza dal livello di Sassari e sono appena a 4-5 km dalla città, diciamo, per cui sembra così, ma è molto. Poi tra l'altro l'antenna non è molto alta, perché questa la dovrei mettere io al posto dove avevo prima la Mantova Turbo, sicuramente migliorerei anche in ricezione, perché guadagnerei parecchi metri, non pochi, parecchi metri, perché lì posso mettere un tubo anche da 6 metri tranquillamente, più c'è tutta la spiovenza del tetto e non è poco, perché ripeto, questa come regola deve essere almeno 5 metri da qualsiasi ostacolo, sia l'ostacolo di terra sia l'ostacolo attorno, tutto quanto, almeno 5 metri da ogni ostacolo, cosa che io non ce l'ho a 5 metri, io ce l'ho a 2 metri e mezzo nel terrazzino, poi se considero togliendo gli 80-90 centimetri da avanzare diventano 1,40 metri, 1,90 metri, una cosa, cioè 1,60 metri più o meno, e se che è basso, è al livello del tetto quasi, anzi in certi posti è più basso del livello del tetto, considerando la spiovenza stessa del tetto. Mi sono chiamato qua. Sì, però la grande, no, io sono quasi 400 metri dal livello del mare, sono 380, avevamo misurato Roberto quando è venuto qua, ma ancora non ci abitavo, sono venuti per fare dei lavori, 380 metri, mentre a Carbonazzi era intorno ai 280. 290, capito? Quindi è molto più alto. Considera che io sono dopo il centro ecologico, più avanti dove c'è la fermata dei tram, si entra lì all'interno, c'è la strada, poi c'è il cancello della proprietà privata, capito? Quindi è molto alto, però rimane appena appena nella vallatina e io Sassari non lo vedo. No, mi arrivate tutti benissimo, caspita Gianni è 9 più 20, che è lo stesso segnale che avevi a Carbonazzi, non cambia niente, tu sei 9.15 quasi modulati, quindi non è che cambia molto. Roberto vabbè era 9.60, ma eravamo troppo attaccati, anche Antonello Alessio, adesso sono tutte e due 1.930, 1.940, quindi non è che quello che mi arriva più forte in assoluto di tutti è Claudio Damuros. Claudio è 9.50, 9 più 50, è allucinante perché ce l'ho proprio davanti, proprio davanti, mentre Eugenio Vapporo Torres mi arriva 9 come mi arrivava prima, io sono calato un pochino rispetto a prima, non ci sentiamo tutti, dai, no, non c'è problema, vai già. Basta considerare che io tutti i migliori di ex li ho fatti dalle querce, dal parcheggio delle querce, lì dove c'è il centro ecologico, e in effetti hai ragione tu, perché ho parlato con Capri2 da lì e mi arrivava fondo scala, figurati tu, e anche io gli arrivavo così, dalla macchina, ti ripeto, quella lì è una bella zona, poi c'era un periodo che si andava proprio in quella stradetta a fare di ex, si vedeva tutto Sassari, però non so se è dove stai dicendo tu. È una stradetta che si entra dentro dove c'è il centro ecologico, si entra dentro quella stradetta lì e poi alla fine c'era proprio la visuale di Tito Sassari. Non lo so se c'è ancora, se è stato costruito, perché ti parli tanto tempo fa. No, già, io sono molto più avanti. No, io sono dopo il centro ecologico. Io sono a una cinquantina di metri dallo scorrimento veloce per andare a Ugello, ho capito. Non so se tu sei mai andato a Ugello dalla strada nuova. C'è un muro tutto fatto a pietra secco, dove lì abita Sergio, Claudio e i fratelli Renna, quelli della discarica, hanno un villone. Io sono di fronte a loro, capito? Io sono più verso Monte Bianchino. Ah, ma sei fuori di Monte Bianchino? Io avevo capito che dove c'erano le rebuti dell'acqua lì, praticamente quella zona lì. Ah, sei fuori di Monte Bianchino, ho capito, sei sulla strada nuova per Usico. E dai, è una bella zona anche quella lì, è una bella zona. Ah, io da Ugello, quella zona lì, con la macchina l'ho girata tutta, facevo i migliori di ex, addirittura al parcheggio dell'Eco ci ho parlato con l'Inghilterra, cioè no, dalla macchina, con un lineare da 30 watt, mi ricordo che aveva fatto un'asta a Torino Kawasaki e ho vinto il secondo primo, era un lineare da 30 watt, e abbiamo attaccato questo. No, ma io non sono sulla strada per Ugello già, io sono verso Monte Bianchino, cioè scendendo Renna rimane a destra, io sono a sinistra. Non la vedi la mia casa perché è all'interno, ho capito, del costone, è all'interno, non la vedi la mia casa. Non la vedi, comunque sono tutte delle case, villette, eccetera, io sono lì in mezzo, va bene, per capirci. La zona è bellissima, c'è molto verde, sta bene, molto tranquilla, molto bella. Vai Giulio. Ok qua. Ascolta, voglio fare una prova così, solo per un secondo. Guarda lo smittere, anche tu Gianni, guarda.